voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Adolfo Guzzini, 50 anni di luce a partire da Recanati, di Anna Marino. Io ho il piacere di vivere a Recanati come tutta la nostra famiglia. Recanati è la città leopardiana per eccellenza e abbiamo tra l'altro il privilegio di vivere nella valle che Leopardi scorgeva e decantava nella poesia dell'infinito. Sempre caro mi fu questo Ermo Colle, scriveva Leopardi, e Adolfo Guzzini, presidente di I Guzzini Illuminazione, ricorda come esista un filo ideale tra i versi del poeta di Recanati e i principi fondanti dell'attività imprenditoriale che da un cinquantennio la sua famiglia svolge nelle Marche, proprio nella città natale dell'autore. Il Leopardi chiaramente ci ha guidato e ci accompagna nello sviluppo della nostra attività. Lei pensi che nelle operette morali Leopardi scrive un qualcosa relativamente al bello e l'utile, e cioè ricordava come già all'epoca gli artigiani dovevano produrre degli oggetti belli, piacevoli, contemporanei per l'epoca, ma utili come servizio. Pertanto diciamo che tutto sommato c'è stata una prima idea del progetto dell'industrial design che noi poi abbiamo seguito e implementato con i diversi materiali. I Guzzini, nata nel 1958, produce apparecchi di illuminazione per interni e per esterni e oggi è la prima azienda italiana del settore illuminotecnico e una delle più importanti d'Europa. 1.217 dipendenti, a Recanati copre un'area di circa 160.000 metri quadri e appartiene alla finanziaria Mariano Guzzini, FIMAG, cui fanno capo tutte le aziende del gruppo Guzzini, Fratelli Guzzini, I Guzzini, Teuco. Adolfo Guzzini è l'ultimo genito dei 7 figli di Mariano e di Irene Guzzini, Raimondo, Giovanni, Marcella, Virgilio, Giuseppe e Giannunzio, che sono appunto comproprietari dell'azienda. Adolfo Guzzini racconta così le lontane e originali radici dell'impresa nel 1912, precisamente nella Contrada Le Grazie di Recanati. La nostra storia imprenditoriale nasce dal nonno Enrico che rientra dall'Argentina dove aveva vissuto per 3 anni con il fratello portando nel 1911 la lavorazione del corno di bue. E pertanto da qui nasce la prima azienda della nostra famiglia, lavorazione del corno di bue per fare tabacchiere da fiuto, contenitori per il tabacco da fiuto, calzanti o i pettini e quant'altro. Da lì crescono i figli, si inseriscono le donne, all'epoca si sposavano, uscivano dalla famiglia, i maschi, uno era andato in Argentina prima che andasse il nonno appunto con il fratello, e 3 rimasero a Recanati e ad età diverse si inserirono in questa azienda artigiana per poi sviluppare la società Pierino, Mariano e Silvio, e nel 38 passarono dalla lavorazione del corno, o meglio continuarono la lavorazione del corno, ma utilizzarono per primi, diciamo a livello internazionale, l'acrilico, il materiale acrilico per la stessa produzione o per una parte della produzione, cioè per le posate, per contenitori e altri prodotti che poi questo materiale stimolava a realizzare. Questi 3 fratelli, 2 avevano famiglie numerose, il più grande zio Pierino aveva 10 figli, mio padre aveva 7 figli e il Silvio aveva 3 figli. I fratelli tutti sono passati per l'impresa, studiavano, smettevano, rientravano, ritornavano a studiare, alcuni di loro, ma praticamente tutti comunque hanno lavorato nell'impresa che era diventata nel frattempo un grosso artigianato, per poi avere un numero di dipendenti, già ricordo, di 150-170 all'epoca, e serviva i più bei negozi italiani e già aveva iniziato un processo di esportazione. Dalla creazione di raffinati oggetti in corno di bue, una delle materie prime più antiche e pregiate che nonno Enrico aveva imparato a utilizzare per fare le pipe in Argentina, si passa presto a una nuova tecnologia di lavorazione, adottando l'acrilico come materia prima. L'intuizione del 1938 è semplice. I nuovi materiali saranno i protagonisti dell'età moderna. Passarono dalla lavorazione del corno al materiale acrilico perché il processo produttivo di fatto era identico. Significava che spaccavano il corno a metà, lo riscaldavano su una fiamma a legna, non a gas, per motivi proprio perché il corno è un materiale che è vivo, un materiale che continua a vivere in ogni caso, e facevano una lastra. Da questa lastra segnavano la posata o altre cose, la segavano, la riscaldavano di nuovo e stampavano attraverso uno stampa all'epoca, all'inizio in legno, poi in alluminio, schiacciando il maschio e la femmina creava la forma della posata, rimaniamo nella posata, poi questa posata che aveva questa forma veniva finita a mano fino a portarla alla lucentezza e realizzando quell'oggetto di posata completa in corno o una posata da immanicare con i manici d'argento delle più importanti aziende italiane che sostanzialmente compravano da noi queste posate in corno dove immettevano nei servizi di posateria d'argento, poi immettevano il manico d'argento. La lavorazione dell'acrilico ha lo stesso processo produttivo, partivano all'epoca con gli scarti che si avevano dalle carlinghe degli aerei perché nel 38 l'acrilico veniva utilizzato per fare anche in particolare le carlinghe degli aerei che prima erano in vetro, pertanto erano delle lastre tagliate, da quelle lastre tagliate che poi venivano un po' sagomate c'erano degli scarti, questi scarti venivano venduti a noi per fare i piccoli prodotti e il processo produttivo era la stessa, si riscaldava sulla piastra, il materiale diventava flessibile, si disegnava la forma che si voleva, sempre la posata o un contenitore rotondo quadrato, si metteva nello stampo in alluminio che era uno stampo no, di maschio e femmina o ad aria compressa che è stata poi l'evoluzione tecnologica del processo, comunque sempre con una lavorazione manuale, fino al 49-50 quando comprarono la prima macchina di iniezione dove facendo uno stampo perfetto, cromato, ed è quello il know-how della Fratelli Guzzini, oltre al design ovviamente, riuscirono a stampare un prodotto ogni 30 secondi, 50 secondi, 40 secondi, che potevano essere bicchieri, posate, contenitori e quant'altro, fino al punto in cui si decise di smettere la lavorazione del corno di bue, rimasta quella tipicamente artigianale e non era più competitivo sul mercato italiano e europeo. Il territorio marchigiano è stato il luogo privilegiato di sviluppo. Alla prima azienda, la Fratelli Guzzini, da sempre sinonimo di oggetti di design per la casa, seguono nel corso degli anni altre attività, seguite dai figli di Mariano Guzzini, Raimondo, Giovanni, Virgilio, Giuseppe e Giannunzio. Fondano il 30 giugno 1958 Harvey Creazioni per la produzione di oggetti artistici in rame smaltato e lampade d'arredo. Per il momento i giovani Guzzini vi lavorano di sera in uno scantinato di 300 metri quadri dopo aver concluso l'orario alla Fratelli Guzzini. Adolfo Guzzini, allora ancora studente, collabora nelle ore libere e durante le vacanze. Entra infatti in azienda nel 61 dopo il diploma, quando i fratelli crearono il primo capannone industriale. Harvey sarà al nucleo della futura I Guzzini Illuminazione. Infatti, ben presto, accanto ai rami decorativi, si affianca la produzione di apparecchi di illuminazione basati soprattutto sulla tecnologia della plastica. Già comunque nel territorio successivamente poi sono nate alcune altre aziende locali sia nei canali che nei dintorni di lavorazione del corno di bue per i pettini e per le pipe in particolare, addirittura c'è stato poi uno sviluppo nel settore delle pipe che hanno creato un piccolo distretto, questo ha obbligato la proprietà, i fratelli, in particolare i fratelli più grandi, a vedere la possibilità di con l'acrilico realizzare altre attività industriali, cioè vedere di applicare l'acrilico in altri settori. Pertanto nasce una prima attività di rami smaltati che erano oggetti tipicamente artistici decorati a mano e un rame battuto a mano per formarlo in contenitori di centrotavola o di posacenere o di chiamiamole testa letto con crocifissi o madonne che siano ma decorate da persone che venivano da fuori dalla scuola d'arte e nel 59 invece nacque proprio la parte della illuminazione con un marchio che era Harvey Creazioni che poi derivava dal coniglietto parlante bianco del film di John Stewart, se non vado errato, no? Che all'epoca ebbe un grande successo. Questa è stata un'idea no? di uno dei miei fratelli che era particolarmente orientato alla parte del mercato e pertanto alla comunicazione e quant'altro. Il passaggio generazionale è un tema necessario da affrontare e da sempre fondamentale in un'azienda gestita da una famiglia così numerosa. Tra me e il fratello più grande c'erano 14 anni di differenza, pertanto diciamo pure all'epoca erano già due generazioni o tre generazioni perché tutto cresceva e si evolveva velocemente. Comunque mio padre ha inserito i figli come gli altri nelle diverse rami dell'attività facendo proprio la parte operativa con poi chi aveva doti facendone, no, diventandone un caporeparto, uno specialista negli stampi o nel processo, nell'amministrazione o nella commercializzazione e quant'altro, questo impulso e questo spazio che è stato dato ha dato una grande spinta allo sviluppo dell'impresa, in particolare con la sensibilità che poi c'è stata l'opportunità di portare e inserire il design nello sviluppo dei prodotti. C'è però una ricetta nata in famiglia nel 1980. Se non in qualche modo creavamo un regolamento della convivenza e della proiezione futura, no, avremmo potuto avere problemi. Pertanto si fece questo regolamento in famiglia in cui il principio della meritocrazia e della selezione a maglie strette già no, partiva dalla prima fase dello statuto di famiglia. Siamo stati dei precursori, a quanto mi risulta, no, relativamente a questa tematica, a sentire Ambrosetti sostanzialmente, che poi ci ha seguito negli anni a venire. Questo statuto ha obbligato ogni singola famiglia ad analizzare all'interno e a far capire i figli, con riunioni chiaramente di gruppo e con riunioni familiari, cioè con riunioni allargate di tutti, con riunioni familiari e con la presenza dei tutor, in quel caso nella prima fase erano persone esterne locali, poi con Ambrosetti, far capire l'importanza che nelle aziende devono andare persone che hanno preparazioni innanzitutto in qualche modo no, culturalmente sufficienti, non possibilmente elevate, attitudini alla gestione, a lavorare in gruppo, a dedicare e a capire che l'impresa era non era un fine ma era un mezzo per in qualche modo sviluppare una attività interna e esterna in termini sociali e in termini economici, e pertanto concentrarsi per chi voleva essere in impresa, dedicare tutto il tempo allo sviluppo dell'impresa e non ad hobby o seconde attività. Questa è stata un po' la matrice che ci ha portato. Successivamente questo patto, che è stato elaborato in continuo, perché poi con una diciamo famiglia allargata come la nostra, che eravamo diventati 18, oggi siamo 72, 75 circa, si è affinato fino al punto in cui si è aperto, diciamo, alla managerialità esterna anche le più alte cariche della società, che è o la presidenza o l'amministratore delegato, tenendo conto che si costituì una finanziaria già nell'82, alla quale è stata trasferita tutta la proprietà delle aziende, in modo tale che da evitare conflitti all'interno delle aziende operative, ma spostare tutti i conflitti eventualmente nell'ambito della holding di famiglia. E questa è stata una lungimiranza, non abbiamo avuto, grazie a Dio, mai problemi, discussioni senz'altro, ma sempre riportate all'interesse comune. Ogni generazione ha inserito novità e portato a svolte, affiancando anche architetti e designer alla famiglia, come è successo quando nel 63 si è staccata la costola di Harvey Creazioni ed è nato il primo catalogo e l'immagine dell'azienda. Adolfo Guzzini nel 1963, insieme al fratello Giannunzio, assume la direzione di Harvey Creazioni. Conscio del grande valore rappresentato dal design, avvia in quegli stessi anni una stretta collaborazione con alcuni significativi progettisti quali Luigi Massoni, Gio Ponti, Rodolfo Bonetto, Bruno Jacqueline, e con loro contribuisce a diffondere la cultura del design nelle imprese marchigiane. C'è stata una prima fase in cui si è iniziati negli anni 55 a operare con degli architetti. I fratelli avevano visto che non c'era possibilità di dare spazio a tutti, perché erano 10 nipoti e 10 cugini della parte di Zio Silvio, 7 noi, allora chiesero di poter fare una nuova attività, che era gli apparecchi di illuminazione di design per l'arredo. Portarono il problema nella famiglia allargata, gli zii hanno deciso che era meglio rimanere nel loro settore come specialisti nel casalingo, e pertanto autorizzarono i miei fratelli a fare una propria attività esterna, con un patto di non concorrenza comunque. Nasce questa attività, dicevo prima, con i rami smaltati e poi con l'illuminazione. Fin dall'inizio sono stati chiamati degli architetti a disegnare questi prodotti, pertanto il primo fu un tedesco, un certo Karl Rotters, che ci venne presentato dalla Romendas, che era un'azienda produttrice della materia prima. Successivamente avremmo altri designer che si chiamavano l'architetto Capici nel 62, poi abbiamo avuto nel 63 l'inserimento di Luigi Massoni, che è stato per noi il direttore artistico, e lì veramente c'è stata la svolta sia nella Fratelli Guzzini che nella istituto dell'illuminazione, ma Massoni ha proprio portato da noi l'importanza dell'immagine coordinata che andava dal prodotto alla distribuzione, al packaging, alla comunicazione. La formula che crea sinergie tra le diverse attività viene applicata poi anche ad altre aziende che nascono nel gruppo, come spiega Adolfo Guzzini. Addirittura nel 72, con lo stesso processo, nacque anche la Teuco, che è stata l'azienda che ha reinventato il bagno, apportando anche lì un design innovativo, funzioni innovative, piena di brevetti. Teuco aveva inserito l'elettronica nella gestione dell'idromassaggio. Pertanto abbiamo all'interno assunto tra i tanti ingegneri anche ingegneri elettronici, fino al punto in cui abbiamo fatto uno spin-off per fare un'azienda di elettronica che si chiama G-Tronica e che lavorava come spin-off di Teuco per Teuco, poi iniziò a lavorare anche per la illuminazione e ora è sul mercato con di circa 17 milioni di euro di fatturato. Solo il 30% è venduto all'interno del gruppo, il resto è venduto sul mercato, ma questa ci è servita proprio per sempre più arricchire di innovazioni, di tecnologia, di funzioni i nostri prodotti. Ingresso in azienda e bilanciamento tra vita e lavoro sono strettamente legati per Adolfo Guzzini. Ho studiato ragioneria, mi sono diplomato in ragioneria, quando ho terminato mio padre mi ha detto che potevo fare l'università, ma facendo l'università ma anche dedicando mezza giornata di tempo al lavoro, alla fabbrica. La mia scelta è stata quella di dedicarmi completamente subito alla fabbrica. Io durante il periodo dello studio ho sempre fatto una vita sportiva, all'atletica, al calcio e ad altri hobby. Praticamente sono abbastanza estroverso, mi piace vivere in mezzo alla gente, ma mi piace competere anche cercando di realizzare il meglio, dando il meglio ma cercando anche di realizzare i migliori risultati. Pertanto mi sono inserito in azienda, i fratelli mi hanno dato lo spazio all'interno dell'attività amministrativa, che era poi la matrice scolastica che avevo formato, ma io non sono un votato amministrativista e pertanto, avendo dovuto fare 2 anni di esperienza in quel settore, ho cercato di trarre vantaggio dal capire fino in fondo che cosa rappresentava ogni fattura che ricevevamo di acquisto. Pertanto chi erano i fornitori, a cosa servivano quei materiali, andavo a riscontrare in fabbrica le lavorazioni, cioè entrare nel sistema poi del processo produttivo delle tecnologie da una parte e dall'altra conoscere i clienti, fare statistiche e laddove poi mi è stato possibile anche visitarne alcuni per conoscere e capire qual era l'attività dell'area commerciale. E la famiglia è quella che mi sono sposato abbastanza giovane, a 26 anni, dedicando ormai tutto il tempo alla illuminazione, perché ho iniziato a lavorare nel 61, nel 63 sono passato all'illuminazione, mi sono sposato nel 67 e già prima di sposarmi, dopo sposato, ero in giro per il mondo. Curiosità, intraprendenza e un innato orientamento al marketing gli consentono di trasformare Harvey nella Iguzzini Illuminazione, azienda leader nel settore illuminotecnico, e di collaborare con architetti e designer di fama mondiale quali Renzo Piano, Gae Aulenti, Norman Foster, Massimiliano Fuxas e Ron Arad. Con l'intento di diffondere una vera e propria cultura della luce, fonda nel 1995 il Centro Studi e Ricerca Iguzzini. E l'istinto imprenditoriale porta Adolfo Guzzini dall'Italia sui mercati internazionali. L'illuminazione per noi è diventata l'azienda di riferimento della famiglia fin dall'inizio, nel senso che era da fare tutto. La Fratelli Guzzini già esisteva e c'era soltanto implementarla. Nella illuminazione c'era da fare tutto, creare un marchio, creare un'immagine, creare una struttura e quant'altro. All'epoca c'erano già dei marchi importanti in Italia, che erano già all'epoca Flosse, Artemide, Stil Novo, Fontana Arte. Abbiamo partecipato fin dall'installazione del mobile, abbiamo visto pertanto il passaggio dal tradizionale al contemporaneo, noi abbiamo sempre lavorato sul moderno, sul design, e chiaramente la sfida nasceva sulla distribuzione e sul riconoscimento del nostro marchio rispetto agli altri marchi. Siccome il nostro prodotto era realizzato con materiale acrilico, pertanto materiale plastico, anche se disegnato da importanti architetti come Gio Ponti, come Massoni, come Bonetto, Casati, Ponzio, eccetera, rispetto al vetro rispetto a coloro che utilizzavano i materiali naturali, cioè vetro e acciaio, la plastica, seppure bella, veniva sempre considerata un prodotto di seconda qualità rispetto al vetro. Soltanto coloro che avevano un altro livello di cultura e di design accettavano di comprare il nostro prodotto. Pertanto, visto che non potevo essere il primo marchio in Italia, mi sono dedicato moltissimo all'organizzazione dei mercati esteri per arrivare a una leadership sui mercati internazionali che poi mi avrebbe consentito di riportare in Italia l'esperienza che abbiamo maturato come impresa e personalmente maturato sui mercati internazionali. L'espansione ha portato numeri da capogiro, illuminando interni ed esterni in moltissimi paesi. Speriamo quest'anno di chiudere a 180 milioni, abbiamo 20 filiali in giro per il mondo, esportiamo il 70% della produzione, stiamo facendo l'illuminazione dei più bei musei del mondo, stiamo illuminando le più belle marche del settore auto, Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, ed altre, e illuminiamo i più bei negozi, che sono quelli sostanzialmente di Loro Piana, dei Tots, di Gucci, di tutti coloro che hanno veramente un brand di alto livello. Adolfo Guzzini definisce così l'identità di questa azienda ricca di storia. Siamo un'azienda illuminata, ma siamo veramente, questo è un orgoglio, siamo anche un'azienda illuminante. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.